America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. In a courtroom packed full of family, spectators and journalists from around the world, those lawyers argue that Amanda Knox has been a victim of, quote, a tornado of injustice. They said she's innocent and they said it is time to set her free. Amanda Knox, il caso è esploso, come vi avevo detto venerdì in America, televisioni, radio non si occupano d'altro, si attende il giudizio di questa sera. Devo dire, ci vuole una piccola riflessione, perché questo è un paese che non ha mosso un dito, nonostante ci fossero molte prove e delle novità importanti per cercare di salvare Troy Davis, un condannato a morte che è stato poi giustiziato una decina di giorni fa, però sono completamente ammaliati da questo caso, di questa ragazza dal volto dolce, gentile, non possono credere che sia colpevole e quindi non si interessano neanche delle prove, ritengono soltanto che il nostro sistema giuridico sia un sistema che semplicemente non funzioni. Ovviamente la speranza qui a America 24 è che la giustizia prevalga. La dimostrazione continua. Occupy Wall Street è il movimento di occupazione di Wall Street, nato in sordina un paio di settimane fa. Siamo ormai già alla terza settimana e devo dire che un errore, secondo me, della polizia ha finito per amplificare questo movimento che si sta allargando a macchia d'olio in tutto il paese. A Miami, a San Francisco, a Boston stanno nascendo movimenti simili, si sta anche estendendo in Europa. Ecco, questo errore della polizia di sabato pomeriggio ha finito per trasformarsi in una cassa di risonanza che ci auguriamo non era prevista. You know, it's hard to say. They certainly hope that that's happening. For example, they told me the reason that they went out to the Brooklyn Bridge yesterday was because it's a symbol of New York City and they hope that it would get a lot of media attention. Dunque, che è successo? Beh, intanto parliamo di Reverend Bill, il reverendo Bill, che è stato un po' l'animatore di questo movimento. Parla della classe dei lavoratori che si deve unire contro i banchieri, contro Wall Street, contro i finanzieri che continuano a pagarsi dei bonus miliardari quando ci sono decine di milioni di disoccupati in America, quando c'è un'economia che non riesce a decollare. Il movimento è cresciuto abbastanza lentamente, poi improvvisamente la settimana scorsa è lievitato da 200, 300 fino a 500, 600 persone. Sabato doveva esserci una marcia pacifica sul ponte di Brooklyn. Ecco, la polizia aveva detto: benissimo, se volete fare questa marcia dovete passare nello spazio riservato ai pedoni. E dunque una buona parte di questi dimostranti in effetti si sono avviati verso questo passaggio pedonale. Che è successo? Che una buona parte invece ha cominciato a dirigersi verso la strada dove passano le macchine. La polizia non li ha fermati, anzi ci sono dei video in cui si vede che alcuni poliziotti guidano questo gruppo di dimostranti, li hanno fatti entrare lungo la strada dove doveva esserci il traffico poi è stato bloccato e una volta che sono arrivati a metà del ponte li hanno arrestati in massa. Questa dimostrazione finora era stata molto pacifica, quindi gli arresti non sono stati degli arresti violenti, però la reazione ovviamente è stata molto negativa perché si è avuta l'impressione netta che la polizia abbia voluto intrappolare questi dimostranti che finora non avevano mai dato dimostrazioni di ostilità di nessun genere. I blame the policymakers. I blame the policymakers for not realizing how severe the situation is in here and especially how severe it is in Europe. I mean, they've been just too slow to respond to what these historic changes. Avete appena sentito Mohammed El Erian, grande gestore di portafoglio della PIMCO che ha 1200 miliardi in gestione e ritiene che un altro tipo di autorità, autorità molto più elevate, i policy makers, i ministri, i governanti, abbiano anche loro gestito molto male la crisi finanziaria. E ci sono due punti. Il primo, martedì ci sarà una riunione a Bruxelles dei 27 ministri finanziari europei e dovrebbero cominciare a mettere a punto un programma per stimolare l'economia che non cresce. Troppo tardi, secondo me troppo poco, secondo me non verrà fuori granché ed è proprio quello che dice Elerian, le autorità non hanno capito quanto grave sia questa crisi. Una crisi che definirei, l'ho fatto anche sul nostro giornale, sul Sole 24 Ore, delle 3C, perché abbiamo una crisi di crescita, abbiamo una crisi di contagio, abbiamo una crisi di credito, riferendoci naturalmente alle banche. Del contagio sembrava che le autorità si fossero occupate la settimana scorsa, a Washington, al Fondo Monetario, i mercati avevano reagito bene quando ci fu la notizia che l'SFS aveva forse ideato un veicolo per poter stanziare una quantità di denaro utile a contenere le preoccupazioni degli operatori. In realtà poi ci si è resi conto che tutto si è arenato di nuovo nella politica. Dopo un aumento forte, quasi il 4% tra lunedì e martedì, le borse sono di nuovo tornate al ribasso. Ma la domanda di fondo è: ma perché non occuparsi di tutto contemporaneamente, insieme, visto che si sa che c'è un problema multiplo, ci sono più equazioni, la crisi è più difficile rispetto a quella del 2007-2009. Lì avevamo soltanto un problema di crisi finanziaria, di liquidità finanziaria. Qui vi dicevo abbiamo un problema di crescita, l'economia non parte, abbiamo un problema di contagio, questo contagio del debito sovrano che sta toccando molti paesi. Alcuni temono che possa arrivare a questo punto addirittura in Oriente. La prossima frontiera, si dice, è l'Oriente, e qualcuno teme che sarà toccata questa settimana. Infine il settore bancario. Per ora non c'è una reazione corale e dunque continueremo ad andare avanti, secondo me, a singhiozzo, alti e bassi, grande volatilità, grandi timori. If you're having a run at a bank and you got 10 people in front of it, no FDIC insurance, you know, that line's not going to stay at 10. You're either going to get rid of those 10 or you're going to have 100. And so far in Europe they've sort of kept talking to the 10, you know, and a few more straggled up. And Warren Buffett, il guru di Wall Street, l'oracolo di Omaha, come lo chiamano, ecco, è stato attaccato proprio da Elerian. Elerian affronta una domanda che credo riguardi tutti: ma se le borse sono così basse, non è forse il momento di entrare? Ci sono dei titoli che rappresentano aziende straordinariamente solide e addirittura, secondo Warren Buffett, il valore di mercato è inferiore al valore intrinseco della società. Non è vero, avverte Elerian, è meglio attendere perché quasi certamente vedremo nuovi minimi. Lui tra l'altro aveva annunciato la settimana scorsa di aver spostato una parte del suo portafoglio dall'equity a titoli obbligazionari del tesoro americano, cercando appunto qualità. I due grandi investitori americani dunque la pensano in modo diverso. Secondo Elerian avremo ancora un periodo lungo di crisi davanti a noi e le aziende nel loro valore intrinseco di oggi non riflettono quello che potrebbe essere il valore intrinseco di domani, se la crisi continuerà e se saranno toccate da questa crisi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Siamo ormai nella terza settimana di manifestazioni, proteste, gente per strada a Wall Street. Il movimento popolare sta salendo insieme alla paura per la crisi finanziaria. Per sostenere le proteste questa sera un concerto di beneficenza dei Dear Tick a Williamsburg. Vi propongo Miss K, l'ultimo singolo della band indie di Providence, Rhode Island. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.